che non c'è, non c'è. Magari anche qua quando ce l'ha molto a posto, fare il portapiste, qualche cosa del genere, almeno per farti qualcosa. Magari non ti farei tanto, però il sabato questo amico mio ci faceva 50 euro il sabato si faceva, gli altri giorni su 30 euro. Però lavorava lì alla cassaforte, la pizzeria della cassaforte che andava come di clinica. Vabbè, certo che sì. E gli assistenti sociali non vi aiutano. E il lavoro non riescono a trovare. Cos'altro non ci ho capito. Non lo sa usare il computer. Non è un programmatore, però lo sa usare il computer. Poi se stava studiando all'università. Tanto ora mi pare che l'ufficio collocamento è aperto solo per dare la disoccupazione, queste cose qua, ma di travaglio mi pare che fino a un travaglio non li vedi più, prima aveva sempre la vina quando veniva un travaglio. Purtroppo i tempi sono cambiati, io mi ricordo che l'ufficio collocamento prima aveva sempre la vina per vedere la gradatura, dove eri arrivato, se ti toccava a te, eccetera, eccetera. No, a lui gli hanno detto che praticamente con il suo diploma diciamo che qualche cosa c'è negli uffici, che stanno cercando molta gente che sappia usare il computer, eccetera, eccetera, che li facevano sapere loro. Sì, sì, esiste, spero. Via. Un casino. E quando uno c'ha famiglia e c'ha un bambino piccolo, è un casino ancora di più. Quello sarebbe un bel lavoro, mi ha detto, non fa nulla. Ma specialmente uno che ha figli, padre di famiglia, dovrebbero subito aiutarlo, non lasciarlo così in mezzo all'aga, diciamo, nel senso che senza soldi, ecco. E ho detto, ma non devi fare prepotenza, perché se no quindi mi danno in odio e non devi giocare al vino. Tu devi stare calmo dicendogli la cosa. Lo so che è difficile stare calmo in queste situazioni, però meglio che usi la calma, perché poi ti bidano in odio e pigio, lascia perdere. E tu, fai domande, presenta come c'è il curriculum, ti fai subito le fotocopie, le presenti nei supermercati, alla Lidl, allo Spile, tanti posti, e lì magari cercano magazzinieri, questa gente qua, e ti pagano bene anche. Poi ci sono dei forum, trovo lavoro, ci sei mai andato su internet, trovo lavoro, metti praticamente, sto cercando lavoro, sono un padre di famiglia, con un bambino piccolo, eccetera, e c'è sempre il moderatore che dice, c'è qualcuno che può buscare un lavoro a questo ragazzo che ha bisogno, questo e quell'altro, sempre, io lo vedo sempre. Ah, sei entrato, Antuli? Vabbè, dai, magari qualche buon'anima ti cerca. Lo so, tu, ma fuori tu ci vai, con la famiglia devi trasferire tutto, un casino. E se sei Olbia, sì, ma se sei in continente, puoi dire che insomma, una volta alla settimana viaggi e ci rispendi in viaggio. Ma tu, il tuo cognato qualche cosa non la può fare. Vedi. Se no ti trasferisci con Sara e col bambino, cosa deve fare? E per il momento ci vai tu da solo, poi una volta che ti sistemi, prendi una casa in affitto e stai lì. Allora adesso è la stagione per cercare lavoro, perché poi comincia la stagione e ci sono già tutti assunti. Se devi andare a fare la stagione devi pensarci adesso, piegarti le mani che andare. Come si dice? C'era Elena Santoro, lavorava. Elena c'è stata, mi pare, 2 anni. E già stava bene, sì. Lavorava in albergo. Quindi, lo so. E poi, vabbè, sono andato io e l'ho portata qua. Però lavorava lì. Era fissa anche. Mi guardava l'albergo, prendeva di più. E lì era in cucina. Lavorava sodo, era in cucina, era aiuto cuoco, quindi tutto lì c'aveva, vite alluccio. Poi aveva una casa a conto suo, capito? Una villetta del principale, che dove stavano erano in tre, no, quella pagavano, vabbè, la alloggio pagavano un affitto in tre, avevano la villetta del principale, una di quelle ville che c'è il principale. No, erano divisi subito, non se ne accorgevano nemmeno. Lui già si ritirava un bel po', perché le tre pagava, mi pare che era 3 zeppiri al capo. Pagavano, però c'era il tanto, era una bella villa col giardino, con tutto quanto, capito? Però lì andavano solo a dormire, anche mangiavano lì, il ristorante, nel ristorante dell'albergo. Così va bene. Poi vabbè, ha mollato lì, è andata da un'altra parte a lavorare, non gli piaceva, e gli ho detto, se devo venire a casa, venitene a casa e lo cerchiamo qua. Antu, non mi era accorto che era così tardi, dai che devo andare a portare il cane, tu puoi andare a prendere anche un lavoro. Ci sentiamo, Antu, ti faccio i miei migliori auguri di trovare lavoro al più presto e toglierti tutti i pesci dal gambo. Ciao Antu, ci sentiamo, dai, quando c'è più calma, perché adesso devo andare. Ciao, ciao, ci sentiamo. C'è qualcuno? Sulla rete, capito, e vedo un po' di scaricarmelo, perché più o meno ho capito come accedere al menu, come selezionare, per adesso sono così, poi altre regolazioni adesso non so cosa abbia. No, ma la radio è molto buona, la radio è molto buona, è chiara, è bella, mi mancano un po' di tonalità alte, bella, bella, bella, bella, il segnale ultimo, Carlo, niente da dire. Sì, va bene, poi quella è un'ottima radio. Sì, infatti adesso che stavo guardando qua c'ho il segnale di ricezione, il tuo, con quella piccolina che l'altro giorno ti ho dato dei controlli, ma è un po' farlocca quella come controlli. Infatti adesso mi stai arrivando lo stesso, anche tu 9 più 15, radio pulita pulita, il segnale è ottimo. Sì, sì, no, ma no, probabilmente avevi anche degli attenuatori inseriti. e Ciccia. Io mi stavo facendo un po' il riascolto qua e niente, perché avevo questo qua sul in un'altra frequenza, avevo il superstar sul 10. Infatti ho sentito una portante, ho girato, sono andato diciamo nella memoria, ho messo il 10 e sono entrato. Ti è arrivata oggi, Carlo? Sì, positivo. E due giorni hai piegato. Sì, sì, hai fatto bene. Quindi quella non te l'ha riparata, no? Anche quella riparata. Praticamente non aveva niente di che. Lui mi ha detto forse era una piccola scheda, che se è quella è da ordinare. Invece mi ha detto controllate, la scheda non ha niente, ho capito che cosa è, mi ha mandato il video, dopo te lo giro. E praticamente ha sostituito l'interruttore. Ma scherzi, l'interruttore dell'accensione? Esatto, e ci ha saldato i fili più grossi, capito? Perché secondo lui ha detto che diciamo si è rovinato proprio perché aveva dei fili sottili, sottili, sottili, e lui ha messo dei collegamenti elettrici che li ha saldati direttamente alla scheda e li ha messi un pochettino più grossi. È positivo, dai, meno male Carlo, che sono contento che non aveva danni, e sono contento e ti faccio gli auguri a buon rendere di questa nuova che hai comprato, di questa nuova che hai preso. Sì, è bello il CRT 9000, cos'è il 9009, così è il 9006, 9009, è molto bello, lo sai che io lo guardo sempre su YouTube ed è veramente una bella radio, cioè è una radio, sembra un quadrimando a vederlo. Sì, sì, mi hanno fatto pure l'estensione qua, gratis. Se ti dico quanto è venuto rispetto ad altri, è una fesseria. Sì, sì, allora, immagino che non sia venuto tanto, che non sia venuto questa spesa eccessiva, che non sia venuta questa spesa eccessiva. Ti trovi bene che il mic com'è? È piccolino? No, anzi ti dirò, è un pochettino più grande dell'altro che avevo, però da impugnare è molto meglio, capito? Molto meglio. Sì, sì, sì, sì, positivo. Ormai sono belle radio, ormai quelle sono belle radio. Quella lì ha l'opzione che puoi uscire o con 2 o con 10 o con 10 watt, mi sa. E qua praticamente come hanno fatto la cosa, pare che se non sbaglio arriva sino a 30 addirittura. Ma vai, ti hanno fatto il coso però la parte esasperata, non lo so, magari ha dei finali massicci e li tiene, esce a vedere. Voglio guardare una cosa, allora CRT 9000, cos'è 9009 quello lì, vero? Sì, 9009 V4 è l'ultima versione. E ok, mi la sto guardando, la sto guardando. Ci sono molte discussioni, ci sono anche le modifiche, su internet. CRTSS 9009 aumenta le modulazioni AM, addirittura ti dà anche su Roger K, AM parlando. Allora, la verifica la faccio sempre con il mio modulometro. Ho notato che con il mic gain al massimo si è tratto a 36 in AM, con il parlato attaccato al mic, con la lapa attaccata al mic siamo al 60%, fischiando vicino al 90%. Uscito ad alzare la modulazione in AM, se avanzare se mi risulta in caso scarsa. Comunque sì, anche qua dice che si può alzare anche la modulazione. Sì, sono cose che farò appena, diciamo, prendo confidenza un po' col menu e con tutte le regolazioni che ci sono, capito? Ti ho mandato il video di quella che mi ha aggiustato e accende perfettamente. Lui dice no, pensavo fosse la scheda, invece Cindy dice, poi ho controllato bene, passava tutta l'alimentazione, però poi andavi a, era collegata poi questa scheda al pulsante d'accensione ed era partito quello. Lui ne ha preso, ne ha tanti pezzi di ricambio, questo è Albino e di Borore. Sì, mi ha detto che è molto bravo, è anche una persona onesta, come diciamo, una persona molto onesta. Aspetta, una radio completissima, è una radio completissima. Sì, 30 watt arriva. Caspita, 30 watt arriva con la radio. Sì, esatto. Io adesso diciamo che sto uscendo con 4 watt, l'ho regolata bassa perché non mi fido a uscire con più, quindi non ho bisogno neanche di ulteriori vitamine, già va bene così. In banda laterale dovrebbe anche comportarsi abbastanza bene con questi watt, capito? Allora, la scala tecnica, la scala tecnica dice eroga 12-13 watt in AM e 30 in SSD. Per la potenza passare da 30 a 40 watt, sì, in pratica c'è un'opzione che te la puoi attaccare non so dove, ti dà 15 watt in AM e 40 in banda laterale. Sì, esatto. È così, perché anch'io leggevo tutte queste info e le altre versioni, diciamo, erano meno potenti. Questa è la CRTSS 9009 V4, è l'ultima versione, capito? E si può programmare tutta dal computer, ovviamente con il programma che penso sia scaricabile oppure su dischetto, e c'è il cavetto però opzionale che è da prendere a parte, ma per adesso già è completa così, quindi non ho da modificare altro, visto che va da 24 a 30, per cui è suddivisa in bande e c'è la possibilità di mettere frequenza oppure canale direttamente. Sì, è una radio molto completa. Allora, Carlo, ti sta ascoltando o ti sta ascoltando in cuffia? Guarda, la modulazione è spettacolare, molto molto molto bella, molto molto molto bella, chiara, niente da dire, ti sto ascoltando con delle Marshall, ti sto ascoltando con delle cuffie, diciamo di ottima qualità. Complimenti, bella veramente. E io purtroppo ho dovuto fare il compromesso con lo spazio perché non ne ho tanto, e avessi la possibilità, come quel mobile che hai tu, di averlo, sicuramente mi sarei anche attrezzato diversamente, però diciamo come hobby, dai, già mi va bene così, e adesso quando ritiro l'altra ne ho due, magari una la posso usare anche in macchina anziché usare quella micro, che insomma non è che renda più di tanto, capito? Perché ho la base magnetica anche in macchina, molte volte andando a lavorare mi fanno compagnia la sera o rientrando, Gianni, insomma, che c'è la sera e si fa delle chiacchierate, a volte aggancio anche l'amico di Alghero, Mirko, e lo sento praticamente dall'inizio quattro corsie sino all'aeroporto, a volte ce la passiamo tranquillamente a chiacchierare. Sì, ma io Alghero non riesco proprio a riceverlo da qua. Guarda, non riesco proprio a riceverlo, non so cosa fare, vabbè, comunque me ne farò una ragione. Caro, questo mobiletto che ho io cosa è successo? Io avevo due radio in garage, avevo una caffè in garage del 2009. Aspetta, però mi sono accorto che era, cioè non era caldissimo come porto, quindi gli ho detto a mia moglie, io una radio la devo portare dentro, perché ho detto portala, però l'importante è che la cosa sia ordinata. Infatti io, mica dove tengo i microfoni, io preso i microfoni, li prendo e li metto dentro l'immobile, chiudo il caso, chiudo lo sportello e non si vede niente, si vede solo il ricevitore con il computer, basta, non si vede altro. No, perché a mettere tanta roba in giro non mi va, neanche a me, cioè tanto io a me guardare proprio il disordine non mi piace, quindi ho trovato questo compromesso qua, mi va bene. Ho il telefono che sta caricando in camera da letto, perché aveva la batteria scarica, Carlo, dopo le guardo le foto della radio, dopo le guardo. Ascolta, quanti ampere assorbe quella radio lì? C'è scritto 10 massimo, infatti adesso c'ho l'alimentatore che dà 10 sino a 13 di picco, quello più piccolo ho messo perché non ha ventola ed è più silenzioso, tanto diciamo non dovrei usare molti watt. Poi i prossimi giorni, quando ho la possibilità di insomma regolarla meglio e vedere cosa, al limite posso collegare quello più grande, perché con quello sino a 32 ampere posso andare, capito? È sempre un Sadelta, io uso alimentatori Sadelta, mi sono sempre trovato bene, sono tutti e due quelli chiari, non so, tipo beige chiaro, quasi bianco, e niente, quindi già vanno bene. Questo è quello più piccolo, però è 10-13 di picco di ampere, capito? Quindi per questa radio così com'è, se non esco neanche con il massimo, dovrebbe reggerli tranquillamente. Sì, guarda, poi in genere l'assorbimento massimo ce l'hanno in banda laterale, non ce l'hanno neanche in AM. In banda laterale perché vanno, come ben sai, ad impulsi, quindi hanno il massimo dell'assorbimento in picchi di modulazione. No, io ti devo dire la verità, mi sto trovando bene con questi alimentatori switching, wow, no, non mi posso lamentare, ne ho preso uno l'altro giorno da 15 ampere, ne ho uno da 20 e poi vabbè c'ho il con la trasformatore, il Lopo che è 40 ampere. Quello ce l'ho su questa radio che sto usando adesso, però diciamo dai cinesi è arrivato, domani lo prendo, un alimentatore 32 ampere da switching con le ventole, viene 30 euro ed è nei cinesi a fianco a Portobello, domani vado e me lo prendo uno. Sì, già li conosco, ne ho avuto uno di quegli alimentatori e poi l'ho regalato, perché per me era troppo rumoroso, capito? Però sono buoni, hanno un sacco di ampere, nonostante siano semplici di costruzione, hanno una regolazione, se li danno con 12 volt l'uscita, poi c'è la vitina, tu te lo ci attacchi il tester, te lo porti a 13,8, però come amperaggio sono sino a 30-32 ampere, capito? Già li conosco. Sì, io li ho portati a 14 ampere, li ho portati tutti a 14, questi due io li ho portati perché arrivano a 14,8, girano tutta la vita a palla, li ho portati a 14 ampere perché poi in modulazione arriva a 13,8, quindi li ho portati tutti a 14 e li ho misurati col terzo e quando vanno in modulazione vanno a 13,8 giusti. Quindi, e vanno bene perché cosa succede? Io li attacco dietro il mobile, dietro questo mobiletto li attacco con l'adesivo e loro rimangono belli, fermi e cose. Sì, dopo dicono che non vanno bene queste cose, dicono che fischiano, che fanno. Io fino ad oggi, guarda, non mi posso lamentare. Evidentemente anche come li hai sistemati, sono in una parte che prendono anche una buona reazione e quindi magari anche la ventola, diciamo, gira di meno, capito? E se sono messi bene magari non senti neanche il rumore. Io ce l'avevo vicino alla radio e si sentiva anche in radio come parlavo la ventolina, quindi a dire la verità preferisco quelli non switching. Ne avevo avuto uno bello da 30-32 ampere che poi mi ero venduto, ed era quello, era buono, non mi ricordo che marca era, qualcosa di giapponese era, però era un ottimo alimentatore, solo che anche quello era sempre con la ventola attaccata, sempre, anche se sfruttavi 4-5 ampere stava sempre con questa ventola. E siccome qua rimbomba tutto, e allora adesso sto usando quello. Comunque anche se dovessi usare il Favelta, quello grande da 32 che ha la ventola, non è così piassoso come quelli, diciamo, cinesi eccetera, è una ventola un pochettino più leggera, come rumore intendo dire. Io la ventola leggerissima, che è proprio silenziosissima, l'ho comprata la Tecnobite a Porto Torres, la Tecnobite, e non si sente neanche quando è accesa. Non si sente neanche quando è accesa, la tu c'hai. In pratica tu dal tasto menu qua entri, diciamo, in tutta la sezione menu, equalizzazioni, lo squelch ce l'hai nel pomello, c'è un grandito qua, c'è lo smitter SRF, ce l'hai dalla destra, e digitale però ti dà tutti i numeretti, sì esatto, come regoli lo squelch ti dà subito squelch 10 eccetera, tutto in digitale te lo dà. Il display è bellino, anche come l'illuminazione, quella che ho trovato impostata è abbastanza chiara e ti fa vedere i numeri che sono anche grandezzi, cioè il display non è grandissimo però sono grandi numeri, capito? È ben, diciamo, bellino veramente, non pensavo fosse così, esteticamente proprio compatto e sembra anche diciamo di ottima costruzione. Ma scherzi, non sembra, è di ottima costruzione, cioè si vede che è una cosa piccola ma è robusta, bella bombata. Sì, sembra proprio, cioè sembra un quadro in banda veicolare. Aspetta. Sì. Ma le ventoline dietro, Franca? No, ha delle alette di raffreddamento, però sono belle grosse, sono in alluminio, color alluminio. Perché sto guardando una fotografia e gli hanno messo delle ventoline di raffreddamento. E queste ventoline così piccole ce le ha Fusaro, vedi, delle modifiche fatte, cioè sono in questa pagina che fanno la modifica al 9009, vedi? E in pratica gli hanno messo le ventoline del dissipatore e poi hanno fatto un'altra modifica. No, questa roba qua non ci interessa, che è l'eco diverso. Cioè, ci sono un po' di... Vabbè, il coso delle ventoline è interessante perché quello vuol dire tanto. Sì, quello, diciamo, nelle conversazioni lunghe, oppure se fai DX in banda laterale, che ci sono anche più watt, già serve raffreddare, per cui se ci sono meglio. Poi avrò un po' il tempo anch'io di documentarmi, insomma, guarderò qualche tutorial e vedrò cosa si può fare. E tutto qua, adesso poi avrò anche l'altra di nuovo a disposizione, però penso che la collegherò dalla macchina, perché a volte quando diciamo sono belle giornate che non lavoro, me ne esco, me ne salgo su a Monte Bianchino, capito, con l'antennone, metto la base magnetica e mi posso appentare anche lì con la banda laterale, capito Davide? Fammelo sapere quando se vai a fare queste escursioni qua, che magari ci diamo un range di distanza, e anche io, perché io avevo un programma di uscire con di andare in qualche posto, però andare col mezzo, andare col furgone, e portare una 5 ottavi e montare tutta la 5 ottavi sulla cassa del diciamo sulla cellula del furgone e provare a uscire con il Superstar. Volevo fare questa prova, mi segui? Per andare tipo, non lo so, a Capocaccia, questi così qui, per esempio uno rimane a Usiro e volevo provare come arrivavo. Ho capito, no, già le possiamo fare, ci mettiamo d'accordo quando hai tempo libero che coincide col mio, già ci organizziamo e facciamo qualcosa del genere. Adesso niente, questi giorni me lo sistemo bene qua, questo qui, e devo praticamente fare qualche piccola modifica sul mobiletto, ma non più di tanto, che devo cercare di capire se trovo delle viti piatte e poi praticamente il supporto della radio, no? la staffa che c'è, l'attacco in alto sulla mensolina, o con le viti, ci metto due viti, oppure se regge un biadesivo che c'ho, che è bello largo, perché diciamo è abbastanza larga, è almeno 3 cm, capito, di larghezza la staffa, quindi me la voglio sistemare in maniera tale che così ce l'ho più in alto e l'audio mi esce da sotto, e all'interno del mobile c'è tutto lo spazio per l'aerazione, capito? Eventualmente posso anche collegare una ventolina che mi butta fuori l'aria calda, capito? Perché qualche ventolina ce l'ho giù in garage e sono già con gli spinottini già pronte per essere collegate al 12 o 13 e 8, capito? Di volt e funzionano, quindi se gliela sistemo dietro dove ci sono le alette me le raffredda direttamente, capito? Metto un interruttorino piccolino, così quando vedo che è caldo attacco e gli soffia un po' di aria fredda. Sì, ci vogliono, perché guarda, la ventola è una cosa importantissima, io l'avrei messa. Carlo, ma parlando così mi senti basso, mi senti distorto, cosa, ho qualche difetto? No, negativo, io ti sento molto bene, chiaro, sempre il segnale stabile, capito, niente da dire. Ok, no, perché sto parlando a voce bassissima, a 40 cm dal microfono, sto usando l'MC60, ma a voce proprio bassa, non perché c'è mia figlia che dorme in camera, quindi non la voglio disturbare. Infatti mi ho messo le cuffie, guarda, io ti ascolto molto molto molto bene. Questa radio ha una modulazione, sembra un HF, è molto molto molto bella. Sì, sai, adesso mi hai dato una, diciamo, un'informazione che penso anch'io che sfrutterò di mettermi delle cuffie magari buone, perché in effetti sì, se non vuoi disturbare è la cosa migliore, ti metti le cuffie e così non, insomma, la radio non disturba gli altri, capite? Allo stesso tempo senti anche bene, perché sei bello isolato, senti solo il rumore della radio, anche per dare eventuali controlli è la cosa migliore. Sì, anche io sto parlando vicino al microfono e anche con il tono di voce basso, così perché per non disturbare, io già c'ho gente grande qua, però sai, sono in cucina e gli altri sono mia moglie in camera, mio figlio in camera sua a quest'ora, solitamente loro televisione ne guardano poca, ogni tanto la guardo io qualche film, tipo ieri c'era la partita dell'Italia, a me piace un po' il calcio, quindi mi vedo qualche partita ogni tanto, ma non è che ne guardo tantissima, quando ho tempo qualche serie TV così mi scarico qualcosa e me la vedo così, però a volte passo un po' di tempo qua in cucina con la radio e quindi anche un paio di cuffie buone, se riesco a organizzarmele non sarebbe male, Gavi. Sì, anche io, guarda, adesso domani è sabato e domani mattina non lavoro, quindi mi sono messo a fare un po' di radioascolto, infatti ho la VHF puntata sulla banda marina, sulla banda nautica, e poi sto ascoltando in altre frequenze roba, ma tipo rumori strani, queste cose qui, e niente, sì, stanotte me la dedico, stanotte credo di fare anche le ore piccole perché voglio aspettare un certo orario, perché ieri notte c'era un po' di propagazione a una certa ora, quindi me la faccio qua, anche fino alle 2, 2:30 me la faccio qua, tanto domani posso alzare anche alle 8, 8:30, non ho problemi. Sì, io ti consiglio un paio di ma io sto usando le Marshall adesso, avevo comprato la Media World, queste venivano 200, insomma, erano, mi sembra 235 ed erano scontate, le ho pagate, ed era a metà prezzo perché era l'ultimo paio ed erano bianche, a me mi servivano per lavoro, quindi ho detto bianche o nere non mi fanno la differenza, le ho prese, poi ho comprato le Sony per lavoro e queste delle Marshall, insomma, le tengo per le radio, però sono comodissime e hanno un audio perfetto. Sì, ma il colore, tanto le usi a casa, non è che queste sono attaccate alla radio, per me possono essere bianche, rosse, blu, non è, se dovessi trovare anch'io l'occasione buona, che è conveniente il prezzo, le prenderei anche rosa, guarda, tanto le tiene a casa per la radio, quindi va bene. Sì, avevi il canale 16, ho sentito, e a volte l'ascolto anch'io quella frequenza, e il meteo mare dicono e altre cose, anch'io poi me ne passo sugli altri, mi ascolto il bollettino molte volte per regolarmi un po' col tempo. Sì, io perché c'ho mio padre che fa il pescatore, capito, quindi a volte sento i discorsi che si fanno tra di loro su un altro canale, e niente, così poi a volte io registro, poi gli mando la registrazione e niente, e vabbè, con lui già lo posso fare. Sì, io le avevo prese perché erano, ma sono scontate perché l'ultimo paio sono bianche, vabbè, non fa niente, grazie a Dio ce li ho 5 anni, non mi hanno dato un problema, sono sempre belle, e va bene così. Sì, le cuffie sono molto comode, puoi provare anche dei rapporti giusti e poi, oddio, non è che ci sia questa grande gente per dare rapporti, però quando si parla con qualcuno magari ti chiede com'è la radio, vi puoi dare una cosa più dettagliata. Ho capito. Sì, io invece domani mattina devo andare a lavorare, quindi anch'io non mi posso trattenere più di tanto perché mi suona la sveglia, me l'ho impostata già alle 6, alle 7 devo essere al lavoro e ne ho sino alle 14, e poi tra rientrare a casa e tutto sono le 2:30. Domani sera poi c'ho un impegno con mia moglie, dobbiamo andare a trovare la mamma che non sta bene, è anziana, e quindi capito, fine settimana, a volte c'è questi impegni familiari, però poi già rientro di sera, nel caso poi domani ci facciamo un'altra chiacchierata su questo canale anche dopo cena, dai. Quindi domani, allora vediamo un po', domani è sabato, poi domenica sono sempre di mattina e lunedì praticamente faccio da mezzanotte alle 8 del mattino, c'ho il turno di notte, capito? Poi c'ho riposo e riprendo di pomeriggio. È positivo, io invece domani mattina prendo, ripeto, mi posso portare anche verso le 8, mi metto la tuta a lavoro e mi spetta il decespugliatore anche per domani, perché domani è sabato prossimo, sono gli ultimi due sabati che ho liberi, perché poi si inizia la tournée, quindi bisogna devo ultimare la campagna, devo fare l'impianto di irrigazione per tenere un po' di erba verde per giocare a bambine, cani, queste cose qua, e niente, mi spetterà domani tutto il giorno e domenica tutto il giorno decespugliatore e motoseghe, e va bene. Beh, la campagna è bella, però poi vuole lavorata. Beato te che ce l'hai, a me i lavori di campagna sono sempre piaciuti, mettere a posto. Tu pensa, da ragazzo non vivevo a Sassari allora, no? E io vengo da Bonorva, quindi là avevamo la vigna, per cui da ragazzino aiutavo, e da ragazzo più grande poi usavo anche la motozappa, insomma, e facevamo tutto, la vendemmia eccetera, e potatura, tutte queste cose, quindi come cresceva l'erba, insomma, quindi mi ricordi. Poi una volta trasferito qua in città, l'unica cosa che faccio è che dove abito io nel condominio c'era un signore che veniva a mettere a posto delle aiuole che abbiamo, no? E questo si prendeva roba di 150 euro al mese, e ho detto questo viene, da una zappettata una volta all'anno, se la dà pure, ogni tanto viene, pulisce, non si vede in tutto l'anno, e gli stiamo pagando un sacco di soldi. Ma l'ho cacciato via, sarà roba di 10 anni fa, ci ho messo mano io e ho piantato di tutto, ho messo due alberi di limoni che non ce n'erano, la gente scende contenta, ogni tanto quando ti serve un limone scendi e lo prendi, capito? E poi ho messo rosmarino, ho messo alloro, capito? Tutte quelle cose che ti servono anche per la cucina. E i condomini, ti posso dire, sono tutti contenti, meno male che è venuto lei, che almeno non mi devo tutte le volte cercare queste erbe aromatiche. L'altra volta gli ho messo salvia, insomma, adesso è che è un po' tutto abbandonato, perché il cortile è tutto occupato dai lavori, perché abbiamo il 110, ci hanno messo l'impalcatura, tutto un mezzo casino. Spero che se ne vadano via al più presto. Dalla parte dove abito io, il capotto l'hanno già tutto finito, intonacato, ci devono solo mettere gli infissi e basta. Poi, per quanto mi riguarda, io penso che nell'arco di qualche mese di liberarmi dai muratori, così mi fisso bene anche la discesa del cavo dell'antenna, che è un po', diciamo, ballerino, me lo fisso sul tetto, perché lì hanno incatramato e hanno messo le tegole nuove, quindi ho dovuto spostare il cavo, capito? Meno male che ne avevo, quindi gliel'ho sollevato, gli ho detto non mettetemelo sotto, e sono stati attenti, me l'hanno lasciato sopra, avevo messo del nylon avvolto perché non lo sporcassero con il catrame, le tinte. A fianco ci passeranno poi mi hanno detto, i cavi del fotovoltaico lì, se creavano problemi. Ho detto no, perché già è una distanza abbastanza lunga, e saranno roba di 4-5 metri, e oltretutto c'è l'angolo e loro li girano dietro, quindi la discesa, fanno una canaletta che porta la corrente giù, capito? Però io sono dall'altra parte, per cui scusa, c'era forse il temporizzatore di trasmissione inserito e quindi mi ha buttato fuori. È positivo, c'hai proprio il tempo, anche proprio devi avere le parole contatte, ti dà Carlo. infatti, oh, adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, dai, lasciamo un po' di bianco a vedere se c'è qualcun altro. Oh, non c'è nessuno. Benemera, Gavri, per me si sta facendo un pochettino tardi, 10:30, adesso vado in bagno, mi lavo i denti e poi mi metto in pigiama e mi infilo a letto. Domani è un'altra giornata di lavoro, dai, ci sentiamo alle prossime, grazie delle quattro chiacchiere, delle informazioni che mi hai dato, quando hai tempo e con tutta la calma di questo mondo, visionati quel sito, se ti interessa gli mandi la mail, fai la registrazione, non ti rispondono subito, però poi già ti rispondono, capito, e ti mandano tutto, il nominativo, ti mandano la tessera che te la puoi stampare, eccetera, come ho fatto io, ti mandano tutto quanto, capito. Ascolto il tuo finale e poi me ne vado a tutto quanto a fare carica batteria. Sì, Carlo, positivo, vabbè, se devi lavorare sì, una bella carica e poi domani freschi come la rosa si va a lavoro. Ho già mandato la mail Carlo, e adesso spero che mi rispondano e vediamo un po', ne vediamo un pochino se ci mandano questo nominativo, l'ho mandato stasera subito dopo che me l'hai mandato tu, tanto ero a casa e l'ho mandata subito. Va bene Carlo, dai, ci sentiamo tutto alle prossime, a domani se coincide, io tanto guarda, credo dopo cena verso le 9:15 di essere sempre in radio, io sono qua in radio anche domani. Va bene, di nuovo buonanotte, buona giornata per domani, dai, buona carica, ciao, alle prossime caro, buonanotte. Ciao Gavi, buonanotte, sì, domani sicuramente ci sentiremo, tanto dovrò smanettare un pochettino su questa radio e sarà inevitabile che mi sentiate insomma in radio. Ciao di nuovo Gavino, grazie delle chiacchiere che abbiamo fatto stanotte, saluto anche eventuali ascoltoni e a domani, ciao buonanotte. Ciao caro, buonanotte.